qui con me. Questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola, non esiste più. Io per me c'è sopra noi che stiamo qui. Abbandonati come sei, non ci fosse più.